Radio 24. Libera la voglia di fare. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, non so se si sente, io ho un attimo il naso tappato. Povera. Mi hai dato una pallonata ieri giocando a... Hai visto quel filmino? Sì, sì, ho visto. Sul web un filmino di calcio. Sta girando. Ma intanto volevo dire a tutti che oggi abbiamo un maestro invisibile ma... Udibile. Essendo per radio va bene, no? Esatto, esatto. Grazie Igor Sibaldi di essere ancora qua con noi. Noi siamo sempre felicissimi, cioè, grazie anch'io. Io ti adotterei, te lo dirò sempre. Un giorno all'altro faremo un accordo. Pensa a te avere come mamma Rosita. Non no, ti passa un... Ma sei stupido? No, perché? Al contrario, lei è proprio l'aspetto. Ah, proprio la tua. Beh, è proprio vabbè, l'aspetto. Guarda che figura che hai fatto così, un, due, tre, via. Guarda, adesso sono... Hai altre cose che... Mi ha detto la stronzetta giornaliera. Sì, non si adesso baldi mi però, mi mortifico vai, subito per qualche minuto e dopo torno. Potremmo in me fare stesso. Tutta una trasmissione, Igor, dove tu spieghi perché io sono così, al contrario. Anzi, volentieri. Vero? Vero, sì. Così lo diciamo a tutta l'Italia. Allora, finché Rosita è la mamma, a me sta bene. E essere papà di Igor che mi preoccupa in questo momento. Allora, sì. È uscito il nuovo libro di Igor Sibaldi che si chiama Il coraggio di essere idiota, edito da Mondadori. Fantastico, perché idiota? Di che cosa ci dobbiamo aspettare leggendolo, per esempio? Dovrebbe essere un libro su Dostoevskij. In realtà è un libro sulla felicità secondo Dostoevskij e tanti altri. Kant, Hegel, Tolstoi. Fantastico. Siccome a un certo punto va bene per il programma, chiedimi se sono felice. Certo. Allora, dall'inizio dell'Ottocento il pensiero dei filosofi ha smesso di pensare alla felicità. No. Da quando questo? Da Kant. E perché? E Kant ha quello che ha fatto proprio ha stabilito, cioè dopo secoli in cui si parlava della felicità, come essere tutto il Settecento sull'essere felici, no? Kant a un certo punto dice: non va bene essere felici, perché chi è felice è scemo, è troppo sottoposto al capriccio delle passioni. E facilmente diventa infelice, poi deve riguadagnare la felicità e così via. È meglio, dice Kant, essere contenti. E essere contenti vuol dire non essere felici. Perché il contento, però non vuol nemmeno dire non essere contento infelici. Contento, si accontenta. Non è detto. Allora, perché il contento, in italiano soprattutto, la parola viene da contenere. Che è lo stesso di trattenere. In latino, contenere è trattenere. Allora, il contento è il trattenuto. È quello che si tiene al di qua di certi livelli che potrebbe raggiungere perché si accontenta. E Kant dice: fa bene quello lì. Così ha un grande senso di dignità e della misura. Eh beh, il famoso detto che si accontenta gode, no? E infatti viene da Kant quello lì. Veramente? Sì. Ah, vedi? Ecco, viene proprio dalle idee di Kant alla fine del Settecento. Poi arrivano ad un altro ben noto, che è quello che da cui obbediamo noi, anche senza accorgerci. Noi pensiamo in termini di Hegel. Ah, io l'adoravo Hegel, tutta quella storia del servo e del padrone. No? Quello è bello, però Hegel insomma, era un prussiano, molto più prussiano di Kant. Insomma. Kant era Prussia orientale, Hegel è proprio Prussia, legatissimo al suo governo, tra l'altro. No? E Hegel è quello che toglie, proprio strappa la testa al toro, dicendo no, la felicità deve essere esclusa dalla mente delle persone intelligenti. Wow. Perché le persone intelligenti devono pensare al dovere. Ah, ecco. Ecco. Prussiano proprio, no? Bisogna pensare a cosa, dove sta andando il mondo. Una volta che hai capito dove va il mondo, allora automaticamente sei infelice, quindi non devi preoccuparti. Cioè la felicità, dice Hegel, sono le pagine bianche della storia. Cacchio, abbiamo azzeccato quindi tutto con questa trasmissione. Si saltano. Vero? Secondo Kant, Hegel. Poi è venuto anche il nostro filosofo Zucchero, Sugar Fornaciari, che ha detto: chi si accontenta gode, così così. No, chi era? Scusami, era Ligabue. Con la giusta perplessità. Post-kantiana. Post-kantiana. Comunque, guarda, e dopo è cominciata la parte dei scrittori, perché gli scrittori, insomma, non gli è andata bene questa cosa qua. E tutto il grande romanzo, ma già prima, già in Don Chisciotte, tutto il grande romanzo occidentale è la ricerca della felicità. Poi uno dice: la storia non c'è se uno non cerca la felicità. Cioè, uno è contento, la storia non viene fuori. Certo. Le pagine bianche sono quelle. Quando... È la contentezza che ha le pagine bianche, non la felicità. E quindi a questo punto, meglio idiota, nel senso che io provo, vado fuori, ma non è che mi contengo, no? Esatto. Mi esprimo, faccio queste cose anche se non sono accettabili, secondo. Giusto. Da qui il coraggio di essere idiota, no? Il coraggio. Questo libro si chiama L'idiota. che è uno che è preso da tutti come uno stupido, perché dentro ha un senso di felicità enorme che vuole dare agli altri. No? Fantastico, però. D'altra parte, la felicità è proprio. Sapete che è estroversa, no? La felicità. Cioè? Allora, nessuno è veramente felice mai dentro, perché non appena uno si chiede se è felice, dice ma insomma. Ma non è vero, io sono felice. Cioè, io posso dirti che ho dei momenti di enorme felicità senza, e me la godo senza farmi influenzare da altro. Brava. Rarissimo caso. È questo appunto. Ecco. Il bicchiere di vino con un panino, la felicità. Esatto. Figurati. Capisci, Igor? Che questa noi andiamo su massimi sistemi. Ma questa non è la versione è la originale. La versione originale dice mangiare un panino con dentro un bambino. Dai. Ti ricordi, scusami, c'era il famosissimo film di Bud Spencer che diceva. Davvero. Ma va, e quindi? La felicità è una cosa, è come la fortuna, no? Mm. Uno ce l'ha e la emana. La emana, cioè gli altri sentono che ce l'ha. Lui magari, una persona felice, veramente felice, magari non sa di essere felice in quel momento. Ah vabbè, ma che palle però, cioè lo sanno gli altri, io non, come fai? A me non mi piace. Cioè io non voglio, a me che mi frega che lo sappiano gli altri che sono felice io. Devo saperlo io. Se sono felice. È la cosa più bella. Ma cosa, non essere consci di se sei scemo, intelligente, tutti felice. Tutti quelli che ti vedono passare, vedi che si allontanano, sono come illuminati. E va bene, quello già lo vedo e mi fa molto piacere. Chissà cosa c'hanno tutti questi, sei tu. Naturalmente certo. La vita a te gira in un certo altro modo. Come avere fortuna, la felicità, la stessa cosa. La fortuna non è che sì, sei perché non... dentro sei fortunato, perché sei fortunato fuori. Vabbè, però un pochino di consapevolezza ce l'hai a sprazzi. Beh, ci sono dei momenti in cui uno si sente felice. La felicità poi... Però sai, è un argomento così vasto. Può essere un panino che... un bicchiere di vino, però insomma... È vero. È confina talmente con la contentezza da essere... Sai, e poi c'è questa grande cosa, cioè la felicità è data da cose esterne, mutevoli, eccetera, oppure c'è un modo per accedere ad una sorgente interna di felicità? Oh, questo qui è, questa è la filosofia antica. Vedi, antichi, come dice. Erudito? Cioè, no, è lui. Sì, lui. Lui no, è, tu lo sappiamo, però lui è una sorpresa. Magna Grecia. Magna Grecia. Magna Grecia. C'era Guido Alberto Bormolini, un altro nostro amico, che dice la felicità è una scelta, fondamentalmente, sì. Dice lui. Tu sei d'accordo? No. No. No. Perché? È una grazia dell'universo. No, io scelgo di essere felice tutte le mattine appena mi sveglio, se qualcuno mi fa girare le balle, vedi come mi incazzo. Ti è piaciuta? Lo sapevo che questo giro di parole a te scatenava delle cose sicuramente molto stimolanti. Questi sono i salti proprio mortali. Certo, mortali, certo, ovviamente. Beh, insomma, voglio dire, non potevamo iniziare domenica migliore a parlare della felicità, che a casa si staranno tutti domandando, sì. Perché tu parlando così, se io sentissi la radio da casa, che già lo faccio da qua, direi, caspita, aspetta, dunque io sono felice, no, sono idiota, ma quindi la contentezza . E quest'altro, Peter ci ha detto arrivederci e grazie, facciamo una pausa e continuiamo fra un attimo. Ciao. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. E torniamo sulla prospettiva della felicità degli animali, dopo questa introduzione fantastica che ci ha fatto Igor. In realtà volevamo parlare di argomenti abbastanza impegnativi. Eh beh sì, perché a volte i cani sono poco felici, i cani, ma oggi anche alcune razze di gatto, così sono poco felici perché maltrattati geneticamente, è una cosa strana, perché uno dice, che vuol dire maltrattati geneticamente? Tipo, che ne so, i chihuahua pur di avere la testa rotonda piuttosto che piccoli. Insomma, piccoli. Ci sono delle disfunzioni create proprio dalla pressione selettiva dell'essere umano, però è un argomento molto complesso, del quale a volte non ci rendiamo conto, quindi abbiamo chiamato una vera esperta di questo tema, che è Barbara Gallicchio, la nostra Barbara Gallicchio. Ciao Barbara. Ciao. Ciao Barbara. Quindi ciao. Per chi è in ascolto per la prima volta, Barbara è un veterinario comportamentalista e si occupa anche di tematiche legate alla domesticazione genetica e così via. Senti, ma due parole su che cosa sia il maltrattamento genetico, ti va di farle? So che è complessa come cosa, però... Ah, sì. Beh, il maltrattamento genetico è considerato il depauperamento della perfezione evolutiva di un patrimonio genetico selezionato con le vie naturali, quando invece perde questi criteri e viene selezionato il genoma degli animali con criteri che non sono quelli ideali. Per esempio, per essere un lupo perfetto... Sì, pastore tedesco, intendi? No, no, il lupo grigio, cioè il progenitore dei cani. Ok. Per essere un lupo perfetto, l'animale deve essere in grado di crescere, diventare adulto, imparare dagli altri, aggiornarsi e accordarsi con gli altri suoi parenti del suo branco con comportamenti appropriati, in modo da sincronizzarsi per imparare tutte le regole importanti per un lupo, e cioè per esempio la protezione territoriale, i meccanismi, i sistemi di caccia, l'attività riproduttiva, eccetera. Per andare a caccia il lupo deve avere delle caratteristiche fisiche, a partire dalle capacità olfattive, dalle capacità motorie, il dinamismo, le articolazioni devono funzionare alla perfezione, la vista e l'udito devono essere non meno che perfetti. E questo deve essere coordinato con gli altri membri del branco. In questo modo l'individuo riuscirà a cacciare, per esempio, un cervo del peso di 250 kg, insieme con i suoi parenti, perché il branco è fatto di parenti, andranno a caccia, uccideranno questo cervo, ne dilanieranno le carni, ne porteranno una parte alla femmina che sta a casa a cudire i cuccioli, e così via. Nell'allevamento del cane domestico, cioè da quando il cane ha lasciato il mondo selvatico dei lupi ed è entrato nel mondo domestico, i criteri sono diversi. A noi non interessa tutto sommato che questo nostro cane sia così tanto veloce, per esempio noi alleviamo i bassotti e ci piacciono tantissimo. I bassotti sono cani da compagnia molto popolari, ma hanno una gamba molto corta, sarebbe impossibile per loro inseguire a catturare un cervo, nemmeno se ne metti 25, no? Povero perché proprio non è nelle loro corde. Eppure il bassotto ha i suoi scopi, no? Per esempio può inseguire le tane? Può inseguire una preda che si infila nella tana, laddove un animale con la gamba lunga normale non ci può andare nella tana. Il bassotto invece può inseguire, che so, il coniglio piuttosto che la volpe nella tana e portarla fuori. Quindi noi abbiamo trovato uno scopo anche in un'anomalia vistosissima per un carnivoro predatore che insegue le prede, come avere le gambe troppo corte, che è un'alterazione genetica, la condrodistrofia, e che determina appunto la incapacità dell'allungamento dell'arto fino al livello normale. Quindi l'animale è svantaggiato in quanto, diciamo così, derivato del lupo, però è avvantaggiato perché a noi piace avere il cane a gamba corta, o perché andiamo a caccia in tana, o perché semplicemente ci piacciono, come all'imperatrice della Cina piacevano i pechinesi con la gamba corta. Ecco che quindi noi abbiamo un patrimonio genetico che non è più perfetto, tanto per fare un esempio, no? Ma di questo però è perfettamente, però in questo caso è perfettamente adatto al contesto, all'ambiente in cui quel cane dovrà vivere. Cioè, a me il problema determina però nel bassotto una facilità all'ernia del disco. Certo. Ecco, e sono queste le cose che allora gli ascoltatori ogni tanto ci dicono, ci scrivono e via dicendo. Cioè, è accettabile che per uno scopo alla fine tutto nostro, no? Infilarsi nelle tane piuttosto che per estetica. Che poi vorrei vedere quanti di quelli che hanno il bassotto in città si infilano nella tana nel bassotto. Sì, vabbè, ti piace così. Oppure, per esempio, il Basset Hound, che è un cane appunto sempre con le zampe corte, però molto pesante, e soffre magari per la mole che ha. Sì, e quindi uno si chiede, ma è giusto? Non è giusto? Gli ho fatto praticamente, non è più... Ma anche il pastore tedesco, no? Che le hanno abbassato così tanto il sedere che adesso c'ha sempre problemi alle zampe dietro. Insomma, sono questi gli interrogativi che ci pongono, Barbara. Allora, è chiaro che i lupi selvaggi hanno un'aspettativa di vita che va dai 5 ai 7 anni, no? Mentre i bassotti hanno un'aspettativa di vita di 15. Quindi dal punto di vista del bassotto potremmo dire che forse ci sono dei vantaggi: vivere in una casa, essere amati, accuditi, coccolati e vivere una lunga vita è spesso un buon prezzo da pagare, no? Sì. Dal punto di vista, diciamo così, della generale del processo antropologico di domesticazione degli animali, noi abbiamo un sacco di argomenti che possiamo prendere ed esaminare uno per uno, no? Cioè, ma questi stavano meglio quando facevano i lupi? Ecco, appunto. No, ma soprattutto, no. Quando è che finisce, quando è che si mette uno stop a questi innesti, a questi esperimenti per no, avere sempre razze nuove? No, vabbè, io li chiamo esperimenti. No, sono i casi della vita, no? Sì, però io dico, ma quando è che l'uomo, se ogni tanto, io mi ricordo quando venne fuori lo Sharpei un po' di anni fa, no? Che fino a quel momento nessuno sapeva. Cioè, quando è che l'uomo la smette di incrociare, di fare, di provare, di smistare, come se dovesse fare un nuovo capo d'abbigliamento primavera-estate 2050? Non so se capisci il mio punto di, la mia domanda, sì, Barbara. Però il punto di partenza della domanda, Rosita, non è corretto, perché noi non provochiamo le anomalie, noi le valutiamo quando capitano. Cioè, un cane nasce con la gamba corta, un altro cane nasce con un eccesso di pelle che fa rughe. Poi noi possiamo decidere che questo cane è interessante con questa forma e decidiamo di tenerlo. La maggior parte delle volte queste anomalie all'origine non sono delle anomalie particolarmente drammatiche. Cambiano nel tempo perché interviene un'esagerazione, e qui invece hai ragione, cioè a dire, noi cerchiamo di esasperarla questa forma, perché per qualche strano motivo piccolo va bene, ma più piccolo è meglio. O grande va bene, ma se è proprio grandissimo è ancora meglio. Cioè tendiamo per natura alle cose estreme. Mm-hmm. Quindi 4 rughe sul muso non ci bastano, vogliamo 40 rughe su questo cane, no? E così via per tutti gli altri tratti che abbiamo citato. E questo è nostra responsabilità. Quindi noi possiamo decidere che un'anomalia, tutto sommato, ce la possiamo tenere, la gamba corta, la faccia corta, no? E creano tutte delle popolazioni di razza che hanno tantissimi estimatori e che per questo motivo hanno delle vite magari comunque molto felici, no? Voglio dire, anche se per dire il boxer non ha la stessa respirazione di un Doberman, uh-huh, ma il boxer è un cane che ha grandissime aspettative, pur essendo una razza che ha una testa anomala rispetto alle origini. Sì, certo, ma quindi però, a un certo punto però ci dobbiamo rendere conto quando queste anomalie, queste esagerazioni diventano un problema per il normale svolgersi della vita del cane, la sua salute fisica, psichica, come per esempio il caso del Cavalier King Charles Spaniel, no? Portato davanti agli occhi di tutti dalla BBC, e lì dobbiamo capire che cosa vogliamo fare. Cioè, a quel certo punto cosa si fa? Quel punto, ecco, qui si entra in una sfera che è veramente molto complessa, no, da valutare, perché quando il Cavalier King, che è una razza deliziosa, no, è un cane da compagnia fantastico, che combina il temperamento, come dire, sportivo degli Spaniel con il temperamento adorabile, mite, dei classici cani da compagnie orientali, no? Uh-huh. Che deriva da questo tipo di incrocio. Per un po' di tempo nessuno si è reso conto che cercare un cranio di una forma particolare poteva causare un problema. A un certo punto questo problema invece è emerso. Uh-huh. È emerso non come una cosa occasionale, ma come una cosa che si stava radicando nella razza. Sì. Allora, avere questa testa a forma quadrata invece che ellittica, il cranio proprio nella fattispecie, non va bene e crea un disturbo nello spazio per gli organi interni, cioè il cervello e il cervelletto. E quindi questi cani avevano questo problema. Quando compare una situazione del genere, improvvisamente gli allevatori si rendono conto che non uno, ma 2, 3, 4, 10% dei soggetti ha un problema grosso. Allora devono affrontarlo. Ma questi allevatori, oggi come oggi, sono coinvolti tantissimo nella vita dei loro cani, no? Cioè sono, la maggior parte di loro sono degli appassionati che allevano magari da 30 anni e che con questi cani ci passano tutta la giornata. È il loro argomento, non sono... No, certo, non lo affrontano ogni tanto, no? Come per dire, adesso che cosa facciamo? No, allora, no, diventa per loro una delle cose di cui è fatta la loro vita di tutti i giorni, capisci? una grandissima allora, passione. Noi oggi siamo contenti di aver sollevato il problema e di aver ascoltato una vera esperta di questo tema. Ci aspettiamo dalle vostre email, scriveteci a chiedimi se sono felice @radio24.it per farci sapere la vostra opinione. Ascolteremo nella prossima puntata nuovamente Barbara Gallicchio per approfondire ulteriormente il tema. Grazie Barbara. Ciao Barbara, grazie. Ciao, buona giornata. E noi ciao. Ci risentiamo tra pochissimo. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Certe imprese sono possibili solo grazie agli dèi dello sport. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Io sono qui per raccontarvele. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20:30. Naturalmente qui su Radio 24. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Beh, oggi è un puntatona, perché ci abbiamo degli ospiti. Adesso abbiamo sentito Barbara Gallicchio che ci ha spiegato della manipolazione genetica. Ci abbiamo qui con noi. Maltrattamento genetico. Abbiamo cominciato a parlare di felicità e dell'ultimo libro di Igor Sibaldi, che è qui con noi. Si chiama il suo ultimo libro, Il coraggio di essere idiota. Com'è il sottotitolo? Aspetta, fammi leggere. La felicità secondo Dostoevsky. La felicità secondo Dostoevsky. Quindi filosofia, no? Volete allora, sapere la felicità secondo me? Secondo te? Qual è? No, adesso mi avete preso la sprovvista, non pensavo avreste detto di sì. Ve la racconto un'altra volta. No, non voglio rubare spazio perché ci abbiamo anche un altro allora, ospite. Abbiamo anche un altro ospite adesso. Fantastico. Al telefono. È un esperto di stati, ma non di stati intesi come nazioni, no? Esatto. Ma di stati interni. E ci parleremo con lui e con Igor di aggressività. Qui con noi Alessio Roberti. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao Alessio. Allora, diciamo, puntatona quella di oggi, perché stiamo parlando di argomento. Poi io con te e con Igor sarebbe un bel, verrebbero fuori dei gran bei argomenti. Sì, se la finissi di mangiare. No, non sto mangiando. Ma hai lì tutti i pacchetti aperti. Ho capito, ma c'è il raffreddore, almeno così mi ho la gola. Sì, così ti peggiora la gola. Aspetta, Alessio, cos'è che ci stavi dicendo del cibo poco fa durante la pausa? Sì, sulle parole e il cibo. C'è stato un docente, si chiama Alfred Korbinski. E senti cosa ha fatto questo per farci capire il potere delle parole. Durante una lezione universitaria ha chiesto ai studenti di fare una pausa. Prende dalla sua borsa una scatola di biscotti, sta piscato a biscotti era avvolta in una carta bianca e comincia a mangiarne un po'. Poi chiede agli studenti in prima fila se anche loro ne volevano uno e alcuni accettarono. Poi pensa cosa fa questo, apre la scatola bianca e scopre che era una confezione di biscotti per cani. Oddio. Alcuni studenti escono, addirittura vanno a vomitare. E Korbinski disse, senti la grande lezione, vedete, vi ho dimostrato che le persone non mangiano solo il cibo, ma anche il linguaggio utilizzato per descriverlo. E spesso il gusto delle parole conta di più. Che scherzi polacchi questi qua. Che scherzi polacchi. Che scherzi polacchi, dice Igor. No, perché anche Igor, essendo Korbinski, filologo, anche per lui le parole sono molto importanti. Diciamo che sono importanti per Alessio dal punto di vista dell'impatto neurologico che possono avere, e invece per Igor dal punto di vista del significato, no? Queste cose qui. No, è interessante perché secondo me quello lì, Korzybski, non ha dato... Korzybski? Esatto, quello lì. No, non ha dato biscotti per cani. È la scatola solamente. Secondo era. Me lui infatti, ha mentito. E infatti vedi che l'hai sgamato subito tu, perché poi è tornato in aula e ha detto attenzione che in realtà io ho preso dei biscotti normali, li ho messi nella scatola per cani e voi avete reagito alle parole, cioè avete visto che era il cibo per cani e avete vomitato. In realtà erano biscotti normali dentro una scatola per cani. E adesso Rosita, delle parole. Rosita indovina perché io sono riuscito a capire... Perché lo sapevi già. No, ma no, però scusa, perché? perché ho davvero assaggiato i biscotti per cani, fanno schifo, te ne saresti accorto subito. Invece volevo dire una cosa, non ho fatto come Korvinsky in Brischi, che non saprò mai come si dice, ma a casa, per fare uno scherzo ai miei amici, un giorno ho messo i biscotti per cani sul salotto, ecco, con un po' di Coca-Cola e di Fanta, se li sono bagnati tutti. Sì, Fabio, mio amico storico farmacista, ha detto: sono secchi, fanno un po' cagare, ma c'ho fame. Quindi capisci che, voglio dire, ognuno per un motivo, sti biscotti per cani girano sempre. Mamma mia. Allora, andiamo sul tema che volevamo affrontare noi in questo blocco, che è l'aggressività. Perché spesso ci scrivono da casa: mio cane è aggressivo. Cioè, noi diamo consigli sui cani, magari lo faremo anche oggi. Però tracciamo spesso dei paralleli tra l'aggressività nel cane e l'aggressività negli esseri umani. Allora io mi sono chiesto: che cosa avranno da dire un filologo, filosofo che è Igor Sibaldi e un esperto di psicologia come Alessio Roberti sull'aggressività? Cioè, per esempio, è accettabile in alcuni momenti? Che significati ha? C'è Igor che ride. Igor scalpita. Ho capito la battuta dei biscotti, l'ho capita, sto capendo adesso. Vabbè, possiamo allungare la trasmissione, tanto talmente interessante che secondo me, anche se prendiamo il blocco dopo. No, perché poi dovete sapere, Alessio ha scritto diversi libri, due dei suoi libri riguardano la relazione con il partner in coppia e la relazione con i propri figli, no? Ecco, quella col partner l'abbiamo letta io e Angelo, anche assieme. Alessio, all'inizio ci guarda, no, eri tu, no, colpa tua, no, colpa mia. Poi ho detto, beh, forse lo leggiamo ognuno per conto suo, se no non sì, riusciamo. Perché uno deve fare un'autoindagine, non è che deve stare a valutare quanto è bravo il partner. No, perché Alessio, tu avevi detto, quando sei venuta la presentazione del tuo libro, che l'ideale sarebbe stato leggerlo assieme, giusto? Ricordo male? Assolutamente sì, assolutamente sì. Capisci? Io c'ho sempre quando lo leggi, uno si deve chiedere cosa posso migliorare io, non guarda qua stai sbagliando, guarda che cosa devi migliorare tu. È uno strumento di diciamo che addirittura non è neanche di miglioramento, ma di consapevolezza, perché poi questi libri ti fanno riflettere sul fatto che noi molte parole le utilizziamo non per scelta, ma perché le abbiamo ereditate. Certo. Siamo cresciuti in un ambiente, in una famiglia che magari usava alcune espressioni, diventano modi di dire che il nostro partner, che è cresciuto ovviamente in un'altra famiglia, alcune parole che per noi magari sono un modo per scherzare possono risultare offensivo per l'altro. Quindi è un lavoro di consapevolezza. Poi questi, io penso che molti testi ci facciano riflettere, diventare consapevoli del fatto che ognuno di noi ha una sua storia e anche un suo modo, quindi, di reagire ad alcune parole. Oh, bene. Quindi, senti, allora io, Igor, posso chiederti l'aggressività che ruolo ha nella tua vita, che cosa significa per te, che cosa possono sapere i nostri ascoltatori su questa parola? Ma proprio per parlare dal punto di vista animale, a me sembra che ci siano degli argomenti che sono proprio al di là dei confini della conoscenza umana, o meglio, della conoscenza condivisibile. Per esempio, non è che il nostro linguaggio possa dire tutto. No, le parole dicevano un potere, però non è che noi possiamo dire tutto. Esempio semplice: che sapore ha una pesca? Come fai a descriverlo? Non si può descrivere. Se sa di pesca, certo. Insomma, che cosa sa la pesca? Tu lo sai di cosa sa una pesca, però non lo puoi raccontare. Ma non riesci a raccontarlo perché le parole non bastano. Quindi devi sperare che quello che tu sai della pesca si comunichi all'altro nonostante le parole. Ma che deve averla assaggiata una volta, perché se non l'ha mai assaggiata puoi dire tutto quello che ti pare. Ma infatti questo è il problema. Come, di cosa sa un frutto sudamericano di polpa nera che non ho mai visto, che lui ha visto? Raccontami che sapore è. Impossibile. E ci sono dei territori, a parte il sapore delle cose, che sono a noi preclusi al ragionamento logico. Ma tipo l'aggressività? Tipo l'aggressività, perché l'aggressività... dunque, per come siamo noi adesso, dunque, alcuni territori sono preclusi da un'impossibilità naturale dell'uomo per capire, altre preclusioni vengono dalla civilizzazione dell'uomo, dalla pressione selettiva, come diciamo prima. 400 anni fa, se avessimo parlato dell'aggressività, il discorso sarebbe stato completamente diverso. 1000 anni fa addirittura ne parliamo. Cioè, tu dici la stessa parola, la stessa cosa, la stessa reazione di una persona o di un animale, a seconda del periodo storico cambia di significato, di importanza. Negli animali no, negli uomini sì, nella civiltà sì. Per cui noi adesso, quando parliamo di aggressività, siamo talmente condizionati da una serie di divieti di carattere morali, non etici, che quello che diciamo ci fa, cioè una censura preliminare, dice questo non dirlo, anzi questo non pensarlo neanche. Ah sì, certo. Poi però allo stesso tempo fanno delle porcate colossali, scusate, certo, questa mia. Appunto perché non le dicono. Ecco, quando, non so, per esempio 3.000 anni fa, l'uccisione, l'aggressività che si manifesta, è gente che portava le armi, mm-hmm. la gente che non so, ma anche non 3.000 anni fa, anche solamente 200 anni fa. Per esempio, in una cittadina del Texas c'era una lapide per terra, un sepolto lungo la strada, che era un pistolero. Dice, qui è scritto, qui è stato ucciso tal dei tali e qui è sepolto. Ha ucciso in vita sua 18 uomini, ma erano tutti cattivi. Se lo meritavano tutti. Ecco, questo è un concetto di aggressività che a noi è totalmente precluso. Certo, oggi perché anche se ammazzi una donna o la picchi o qualcosa, stai in galera due o tre settimane e poi riesci. È intervenuta una serie di cose. E noi, ascolta, con questa difficoltà grossa che abbiamo morale, è difficilissimo che riusciamo a capire l'aggressività come per gli animali, che invece sono liberi da questa situazione storica, perché non hanno avuto un tipo di evoluzione, salvo forse gli animali che stanno proprio a ridosso dell'uomo e che imparano, perché la morale si capisce anche tra specie e specie, e imparano che certe cose sono cattive. Allora il gatto si impara che non può aggredire l'altro gatto, per esempio, no? quando gli gira. Però quello che gli animali sanno dell'aggressività in questo caso è enormemente di più di quello che ne sappiamo noi. Bene. Allora, io sui cani ho imparato che l'aggressività è uno stato interno. E mi ricordo quando Alessio mi spiegava, perché Alessio è stato il mio insegnante molti anni fa, mi spiegava che l'aggressività è uno stato. Mi ricordo bene, Alessio? Assolutamente sì. stavo ragionando su quello che diceva Igor sul concetto di aggressività, e secondo me è molto collegato alle parole. Rosita ha detto tu ammazzi una donna e questo non conta, però io vorrei farvi sottolineare che fino a quando continuiamo a dire che se uno ammazza per amore, certo, le parole giustificano il comportamento, e quella non è neanche ritenuta aggressività se la descrivi come ammazzato per amore. Dovremmo chiamarlo in un modo diverso, perché le parole suscitano emozioni e quindi anche comportamenti. Questo concetto è importantissimo, cioè noi abbiamo un vocabolario che è collegato alla nostra vita emozionale. Se alcune parole, io stavo pensando mentre parlava Igor, ci sono alcune persone che ammazzano altre, ma sminuiscono questo perché dicono non ho ammazzato una persona, ho ammazzato, e ci mettono un'etichetta che li sminuisce. È quello che ha detto Igor, sono cattivi, erano cattivi. Ho ammazzato un cattivo. Questa è una posizione dei padri della Chiesa, San Bernardo, che dice uccidere un nemico nelle crociate non è un omicidio, è un malicidio, perché uccidi il male. Avete. E questo ci fa riflettere sul fatto che se noi chiamiamo le cose col nome sbagliato, queste ci danno un'emozione diversa. Quindi ammazzare per amore, io che lo ascolto sento un'emozione, ma se avessi invece mi avesse detto l'ammazzato per odio, lo stesso omicidio mi provoca una reazione emotiva. Certo che sì. Quindi noi dobbiamo ricordarci sempre che il nostro vocabolario è un vocabolario innanzitutto emozionale, e se usiamo le parole sbagliate per descrivere un omicidio, un'aggressione, le persone e soprattutto l'opinione pubblica reagirà in un certo modo. Eh beh, certo. Le parole che utilizziamo per descrivere determinano le emozioni. Tu pensa al lavoro che fanno i media con i popoli interi su come riportano le notizie, sul senso che gli vogliono dare. Beh, ma guarda, adesso dirò una cosa che magari spero che si riesca a capire. I famosi reality show in televisione, siccome io ho avuto la possibilità di farlo sia da, come si dice, da inviata, quindi vedere dietro le quinte come si lavorava, che puoi farlo come concorrente, fanno così. Cioè tu sei convinto di fare esattamente quello che faresti a casa e che sei libero, ma poi ti montano le clip in modo tale che tu risulti più una cosa che serve piuttosto che un'altra. Cioè ti dipingono e ti danno le sfumature, i colori che vogliono di più, e questo lo fanno con le tue stesse parole. Quindi sempre il significato è dato dalla cornice, che è un po' quello che, come abbiamo aperto, no? Con questo episodio di questo professore che ha dato biscotti per esseri umani, però dicendo sono per cani, tutti quanti sono andati a vomitare. No, facendo vedere la scatola. Allora facciamo un attimo un break e poi ricominciamo subito dopo, continuiamo la nostra chiacchiera con Alessio Roberti e Igor Sibaldi. A fra poco. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta... Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Sì, ecco. Sì, sa, to. Cretino, ma ti roba che pirla. Cioè, come bambini. Volevo come fare bambini, qualcosa di assolutamente serio. Abbiamo qui con noi, però pensa, un filologo e un linguista. Quindi abbiamo con noi adesso Roberti, che è un esperto di programmazione neurolinguistica. Abbiamo Igor Sibaldi, che è un filologo e filosofo. Senti, posso fare una proposta indecente in radio, sì, a tutti e due? A tutti e due, me e Igor. No, tu sei già compreso nel pacchetto. Sono amore, già compreso, sei il mio fidanzato. E ad Alessio e Igor, ma perché non ci facciamo una settimana tipo in alta montagna a chiacchierare davanti al fuoco con Poracci, loro due? Cioè io, cretino. Alessio. Trovare la settimana. Alessio è svenuto. Dov'è? Pronto. No, ci sono, cioè, no, perché io adorerei ascoltarvi parlare. Cioè io farei come il ping pong, mi giro da una parte e dall'altra. Infatti da è per questo appunti che abbiamo voluto condividere questa cosa con i nostri amici ascoltatori. Ma allora uno si chiede, c'è il cane aggressivo, abbiamo visto a volte come far mutare, innanzitutto che ci sono tanti tipi di aggressività nei cani, no? Ce ne sono anche una dozzina, no? L'aggressività materna, protettiva, territoriale, idiopatica, dice qualcuno. Che un po' sono anche le stesse nostre. Da paura, possono essere, pensa, quella da possesso di cibo. No, quella dell'aggressività, l'aggressività possessiva. E quindi ognuna di queste ha un perché, un motivo. Non è nei cani l'aggressività sintomo di una patologia, perché sai, a volte parlavo l'altro giorno con una mia collega, vengono i proprietari di cani e ti portano lì il cane ed è un po' come se fosse il DAS, il pongo, e ti dicono: senti, non lo voglio così, lo voglio cos'ha, me lo aggiusti? E questo senza, non so, senza chiedersi com'è la personalità di questo cane, perché sta facendo in questo modo, eccetera. Però tanti ci dicono: ma allora, se il cane si comporta in modo aggressivo e lo si può aiutare a dare un significato differente, per esempio un cane aggressivo perché incontra gli altri cani, e io posso fargli vivere questa esperienza in modo più tranquillo, cioè gli altri cani non sono una minaccia ma possono essere addirittura fonte di gioia, sicurezza, amicizia, vi dicendo. L'uomo, ma perché quando succede all'uomo, agli esseri umani, perché succede? È accettabile a volte? Come faccio io, se io sono una persona aggressiva che tende alla rabbia, al rancore? Io so che il rancore è una delle quattro R che segnano la fine dell'amore per Igor Sibaldi, e che Alessio insegna anche a gestire le emozioni distruttive, no Alessio? Sì. Allora, io parlo ovviamente di una cosa importante che per me è davvero quello che noi chiamiamo il vocabolario trasformazionale, cioè iniziare innanzitutto a usare un linguaggio che sia meno aggressivo sia con noi stessi che con gli altri. Ci sono degli esercizi che durante i corsi, nei libri si mettono, che sono davvero esercizi importanti. E sostituire ad esempio parole come esausto con da ricaricare, depresso con sulla via del cambiamento o sulla via del miglioramento, hanno un impatto. Infatti viene chiamato proprio vocabolario trasformazionale, perché le parole che diciamo noi stessi ci possono buttare giù, ci possono descrivere la vita come... Io ogni tanto ascolto qualcuno che dice: la vita è una guerra. Sì. Dico: mamma mia, ma cosa c'è nella capoccia? C'è una controindicazione però, perché cioè questo reprimere il male, reprimere il dolore, reprimere la critica, reprimere l'irritazione, che non è aggressività l'irritazione, porta però a moltiplicarla. Cioè se uno la scarica, per esempio a me viene in mente il linguaggio estremamente aggressivo del romanesco. Ecco. Le persone che si vogliono molto bene a Roma, incontrandosi, dice: te possino ammazzate. Esatto. No? Te possino ammazzate è un modo molto arcaico di salutare. Io scarico subito la mia aggressività verso di te, che ci può essere anche inconscia, e dopo averti detto questo ti abbraccio, ti bacio e andiamo a mangiare qualcosa insieme, no? L'immortacci tua, ecco, no? Ecco, dicendo queste cose uno dice: oh, mi scarico questa aggressività qui. Dopodiché dipende dal livello, solo che lì sei già in uno stato diverso che non è quello dell'aggressività. Quando tu incontri un amico dici: magari aggressività, cioè sei già aggressività inconscia. Magari inconscio, magari io ce l'ho con questo. È come dire: faccio i brindisi. Perché faccio i brindisi? Perché magari c'è il veleno nel bicchiere, per cui lo do un colpo forte, e la precauzione contro l'odio diventa forma di cordialità. Sì, secondo me sei in un campo, in quel momento, in cui ti puoi permettere qualcosina in più. Il problema è: ma quando tu sei già dentro, che veramente quel momento lì sei aggressivo, non c'è quella cordialità mista ad aggressività? No, quando c'è quell'aggressività, quando scatta. E poi però bisogna vedere, perché sono sono diversi livelli di civiltà. Allora, nella nostra civiltà viene sempre, in alcuni stati più che in altri, viene sempre più screditato a livello popolare l'elemento della collera. La collera, screditato. Sì, la collera non va bene, no? Negli anni 70 la collera era il motore, era importante, certo. C'era la manifestazione collerica al mese sicuramente, sì, esatto. E le cose andavano anche abbastanza bene negli anni 70. In Italia attualmente la collera è scesa a livelli di zero. No, a noi la tengono bassa, però sto dicendo, i politici invece a livello popolare, si esprimono, certo. A livello popolare la collera viene tenuta bassa, perché uno si vede, c'è questo bellissimo esperimento americano, cioè vedere il rapporto tra esperienza avversa e esperienza favorevole. Allora, solita statistica americana, 2013 questo esperimento, cos'è? Bad e good. Vediamo, il test era quanti complimenti ci vogliono dopo una lite matrimoniale per compensare un insulto. Per esempio, lui dice a lei: maledetta cicciona. Qui Alessio ci può dire. Quanti complimenti ci vogliono perché a lei le passi l'arrabbiatura? Il livello medio è 5. Risultato, un'esperienza bad, avversa, è 5 volte più coinvolgente dal punto di vista energetico di un'esperienza good. E una persona tenuta a livello good per molto tempo diventa 5 volte meno forte psichicamente di una persona che ha delle avversità. È terribile questa cosa, perché il pensiero positivo viene scardinato da questa che cosa. Che dice Alessio? Allora, io vorrei aggiungere una finezza linguistica, però ci deve far riflettere. Sei una brutta cicciona è un attacco a... l'identità della persona, sì. Quindi anche le parole che usi, dipende da quali usi, cioè se tu dici fai delle stupidate immense, fai delle cronerie assurde, e fare, cioè comportamento, dire sei, qualsiasi cosa tu metta dopo sei, non basta, è un amplificatore, cioè se uno, un conto è dire bevi troppo, un conto è dire sei un ubriacone, no? Sì, esatto, sì, sì. Per quello dico, le parole provocano, sono delle bombe emozionali. E le parole che attaccano l'identità, questo vale con i bambini, io poi ci ho ragionato tanti anni su questo, sia con i bambini che in coppia, e bambini è ancora peggio. Un bambino che fa una stupidata, gli dici che ha fatto una stupidata, non sei uno stupido, perché se ti scatta e ti scivola di passare a un 6, quello lo ferisce profondamente. Mm. Hai voglia di raccontarci tutte le storielle che vogliamo, ogni volta che uno attacca la nostra identità per quello che abbiamo fatto, ci sta dando una pugnalata. E quindi sì. Il linguaggio è un vettore emozionale. Il bambino che viene attaccato, la coppia in cui dici, quando Igor dice sei una, ma poteva mettergli qualsiasi cosa, poteva dirgli sei una casa, sì, ma non è quello il punto. Di stupidità o sei una valigia morta, qualsiasi cosa anche senza senso, messo dopo un sei, va a ledere l'identità della persona. Sì, sì, ma non è quello il punto. Il punto era quanto occorre per recuperare. No? Eh sì, immagino che dipende da come vuoi recuperare. Poi lì non so se tu ti riferivi ad una ricerca, no, Igor? Sì, sì, okay, sì, okay. Sì, un test famoso. Allora, avranno fatto una ricerca estesa. Perché da quello che capisco, lei, se tu intendi anche, se io ti dico sei appunto una brutta cicciona, è diverso da dire mangi troppo, no? Esatto, o mangi come una cicciona, che sarebbe diverso. Qual è l'aggressività più evidente di quest'epoca? Sai cosa? Io in questo periodo forse perché c'ho un po' Trump in testa, no? Ecco. Però mi sembra che l'aggressività più pesante sia quella che venga sminuita. E quindi oggi stiamo riarmando. Cioè, mi sembra essere tornato quando andavo in elementari, che la maestra ci spiegava che dovevamo prepararci una guerra nucleare, ma la vivavamo come una cosa grave. Io mi ricordo, ci fecero vedere il film The Day After. Sì, me lo ricordo pure io. Non ho dormito una settimana dall'azione. È vero. Però mi ha fatto rendere conto, quando io sentivo la parola guerra, mamma mia, avevo tutta una serie di immagini. Oggi mio figlio va a scuola, mi dice, papà, guarda che Ciccio Kim e Trump stanno per fare la guerra. Ma gli hanno cambiato il significato, hanno normalizzato una parola che di per sé dovrebbe spaventarci. Ma secondo me non vogliono che noi ci spaventiamo, perché sennò prendiamo delle decisioni. Mannaggia, 30 secondi al termine, ma lo voglio dire, ma è volata sta puntata. È volata sta puntata, davvero. Senti, dobbiamo riparlarne. Qua l'aggressività, veramente siamo al primo strato della cipolla. Dobbiamo andare a fare. La voglia è strati della cipolla. Senti, grazie Alessio Roberti di essere stato con noi questa domenica, e cercheremo di importunarti per altre puntate, per altre domeniche. Grazie a voi dell'ospitalità. Appena ce lo concedi, un abbraccio. Grazie ad Alessio Roberti, grazie a Igor Sibaldi che è stato con noi. Tu, già che ci sei, vieni anche domenica prossima, no? Volentieri. Dai, vieni domenica. Allora, domenica prossima ancora con Igor. Igor c'è e Alessio poi vedremo di ribeccarlo. Anche Alessio prima volta. O poi dobbiamo assolutamente invitarlo. Sì. E mi raccomando, scriveteci a chiedimi se sono felice @radio24.it. Che dire, è volata sta puntata quando si parla di cose toste, belle, con due persone fantastiche. A domenica prossima da Angelo Vaira e Rosita Celentano.